quasi nulla è oramai. È tutto perché c'è la gente meschina che ci infame ancora con la sua malvagità. Ancora è impossibile trovarli e catturarli per fargli pagare tutta questa crudeltà. Tre Pippo e Pino e Rita tutti morti, e perché? Perché lo volle lei, la mafia, la mafia. Vai a vedere solo la vita di Peppino, nato per un caso dove non doveva stare. Pagò forse per sfizio l'onore di suo zio, che piangendo uccise un grande suo nipote. Quanti giovani vedremo come Rita Atria, che per depressione s'ammazzò col cuore infranto. Quanti ne vedremo morti interiormente.